coyote il suo collo si è rotto. Da un buco nella pietra esce un vestito rosso. La pioggia di notte occulta le tracce, ma non copre il rimorso. Lava solo